Per parlare di emigrazione ho scelto di cominciare da qualcosa che mi appartiene veramente, da un'esperienza che ho vissuto quando avevo 10 anni ed era il 1980. Ora, la mia famiglia è leccese, si viveva a Lecce, però in quegli anni mio padre aveva scelto, un po' per motivi personali, un po' professionali, di andarsene a lavorare a Bergamo. Bene, una volta al mese, partendo da Lecce in treno, a Bergamo ci andavo anch'io per controllare l'apparecchio ai denti, messo in uno studio specializzato del nord, così piaceva dire a mia madre. In realtà era anche un buon motivo per vedere più spesso mio padre. Mia madre appunto lavorava a Lecce, doveva anche badare a mia sorella più piccolina, per cui sul treno espresso Lecce-Milano-Schaffhausen-Stoccarda venivo puntualmente affidato alla prima famiglia di emigranti. La prima che ispirasse un po' di fiducia all'occhio ormai esperto di mia madre. Insomma, a un certo punto si parte. La famiglia di emigranti mi osserva, mi chiedono il nome. Il treno in corsa, non so se ci avete fatto caso, ma è terra di nessuno. 14 ore di anarchia assoluta, che mi facevano dimenticare anche la paura di quel viaggio da solo. Allora, come ti chiami? Rispondo alla domanda con sincerità per la prima e ultima volta. Mario, Mario Perrotta. Il resto del viaggio davo sfogo a tutta la mia immaginazione, inventavo storie fantastiche su mio padre, su mia madre, che di volta in volta diventavano ingegnere, cuoca, muratore, professoressa, dentista, ovviamente, attore, emigrante. Sì, nella mia testa anche emigrante pensavo che fosse una professione. Sì, ma dico emigrante in che senso? Lavora in fabbrica, contadino, fabbricatore, cioè muratore, cameriere, minatore. Minatore! Minatore mi piace. Ah, ho capito. In Belgio? No, a Bergamo. A Bergamo? A Bergamo. Ah! Squinzano, Brindisi, Ostuni, Fasano, Monopoli, Bari, Bisceglie, Trani, Barletta. Osservo le loro facce. Ascolto i discorsi sui parenti che hanno appena lasciato. Mangio la parmigiana che puntualmente mi offrono. E intanto mi chiedo dove sarà mai questa Schaffhausen. No, io scendo a Stoccarda, dice un altro. Insomma, in quei viaggi parlano di loro, parlano della loro vita, parlano del lavoro. Dicono che non è più duro come una volta, come i primi anni in cui sono partiti. Dicono che in fondo oggi basterebbe che la fabbrica fosse a Lecce e non a Bruxelles per essere felici. A Bruxelles ho fatto le scuole elementari. Ah sì? Sì, mio padre faceva il calciatore lì. Ah, e adesso? Gioca col Bergamo. Col Bergamo? Col Bergamo. Ah! Cerignola, Foggia, Vasto, Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Fano, Pesaro. Dormono da un po' di ore. Io invece no. Io passo tutta la notte incollato al finestrino. Imparo a memoria il paesaggio notturno che cambia. Poi passeggio nel corridoio. Spio negli altri scomparti. Dormono stesi ad incrocio, i piedi di uno sulla faccia dell'altro. Puoi capitare come niente sotto il gomito o il ginocchio di un altro se non ci fai attenzione. I calzini di quel ragazzo non promettono nulla di buono. Ma le facce. Le facce restano la cosa più affascinante, sospese in una espressione di viaggio perenne, come chi non sa più né da dove viene né dove è diretto. Stranieri due volte, dice qualcuno di loro. Ah, ma tu qui stai, hai fatto prendere un colpo, ma dove vuoi andare? Dal macchinista, e a che fare? È mio zio. Tuo zio? Mio zio. Ah! Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza. L'alba ti coglieva sempre tra Faenza e Bologna, questo me lo ricordo. E a Bologna c'erano sempre i primi passeggeri che scendevano. Chi alla stazione di Lecce, alla stazione di partenza, non era arrivato per tempo per partecipare a quella che si chiamava la gara. No, forse qui a Pordenone è meglio che io la spieghi perché non so se l'avete vissuta. La gara funzionava più o meno così. Dovevi arrivare in stazione e posizionarti con le valigie lungo il primo binario, quello di partenza, ancora vuoto. A un certo punto vedo che qualcuno ride, forse ha fatto l'esperienza. A un certo punto veniva messo il treno, anche lui vuoto, per la partenza. Bene, dovevi prendere le valigie, buttarle nel primo finestrino aperto e prendere posto. O addirittura nei periodi caldi, dovevi entrare fisicamente dal finestrino per arrivare prima degli altri. Ecco, chi non aveva avuto tempo di partecipare a questa gara, a Bologna sapeva che un posto da sedere lo trovava, almeno per metà del viaggio. Gli altri intanto, quelli che invece dormivano perché il posto lo avevano, cominciano piano piano, intorno all'alba, a risorgere dietro i vetri degli scomparti. Ma le facce non sono più le stesse. Adesso, tra le nebbie della Bassa Padana, lo sanno chi sono e dove sono diretti. Glielo leggi in faccia. Non è più tempo di racconti, di fantasie. Piacenza, Lodi, Milano Lambrate. Arrivederci, signora. Grazie di tutto. Di niente, figurati. Ui, salutaci a tuo padre, e digli che si ricorda di noi ora che lo fanno ministro. Va bene, grazie. Milano Centrale, 1983. Sono passati 3 anni, su e giù per l'Italia una volta al mese. Poi non li ho visti più, per quasi 20 anni. Saltiamo al 2002. Dopo aver trascorso molti anni tra Bologna e Roma, prima per studio, poi per lavoro, ho voglia di riscoprire la mia terra, la mia gente, e lo faccio in un bar qualsiasi di un paese qualsiasi del Salento, dove per il solo fatto di aver studiato a Bologna mi considerano uno del nord. Qui siamo stati tutti emigranti. Chiedi a lui, eh? A lui. Lui conosce tutta la nostra storia. Ah sì? A lui. Mi dicono di parlare con il postino. Il postino conosce le storie di tutti gli emigranti del paese. Il postino ha memoria. E la memoria, oggi in particolare, credo che sia importante perché ne abbiamo sempre meno. Perché qualcuno l'avrà pure permesso quel boom economico. Perché l'Italia girava in 500 e noi dormivamo in 8 in una stanza. Perché lo Stato ci ha venduti per un sacco di carbone. Perché mi vergogno di raccontare a mio figlio quello che siamo stati e come ci hanno trattati. E sono appena arrivato a questo paese. La memoria è importante. Adorata Maria, subito rispondo alla tua cara lettera per dirti che lo sciopero è finito, ma non ne abbiamo ottenuto niente, che 58 di noi sono stati licenziati, li hanno dati il libretto e messi alla porta come cani. Fratello mio, appena arrivato al Belgio, ti scrivo questa mia per avvisarti di ritirare subito la domanda di partenza. Il viaggio per venire qui è sufficiente per capire dove siamo destinati. Arrivati a Milano, siamo stati 3 giorni con questa mia, marito mio, per dirti di me. Io sto bene, come spero di te. Ti scrivo per mezzo di mio cugino Alfredo questa prima lettera e tante altre te ne voglio mandare. Mamma mia cara, ho avuto la tua lettera e so pure che lì è arrivata la notizia della tragedia di Marcinelle e che tu sei preoccupata per me, che non mi succeda la stessa cosa. Purtroppo io? Il rischio c'è sempre, ma io ci faccio attenzione. Dico, io la conosco benissimo la storia di questa nostra terra, fin dalla preistoria e oltre. Ovvero quando qua nel Salento ci vennero i Longhibardi, casi era più o meno intorno all'anno 800, quindi dico un gran bel pezzo indietro, perché signoria mi può confermare, oggi siamo nel 2000, quindi 1200 anni fa, io so leggere, scrivere e fare di conto, ed è per questo che mi hanno scelto di fare il postino in questo paese, che qua dico nessuno sapeva leggere e scrivere, quindi ci voleva qualcuno che leggeva e scriveva per la povera gente. Dico modestamente, con grandissimo rispetto, questo era il mio lavoro, recapitare, leggere e scrivere. E dove lo trovi un altro postino che si mette a leggere e a scrivere per la povera gente? Li conosco io i postini del nord, quelli consegnano e basta. A mezz'ora si sono sbrigati e chi si è visto si è visto. E dico, signoria mi può confermare, perché se non sbaglio viene dal nord, no? E se viene dal nord poi io sono ancora più fortunato, perché sicuramente avrà sentito nominare questi Longhibardi che, come dice il nome, vengono di Milano. E scesi qui alle terre delle Puglie, dico ora per contarci la storia, no? Come ci ho promesso. Scesi qui alle terre delle Puglie, si presero prima la parte di Benevento, poi chiano chiano tutto il resto, tranne qualche zona che rimase come dire sfusa, ecco, che poi erano le zone più povere, tipo Salento, Otranto, Callipoli. E anche perché qua ci stavano i bizantini, che erano sfaticati, ma quella volta però si messero a combattere con i longobardi e riuscirono a fermarli, sì signore, alle porte di Brindisi e poco sopra Reggio Calabria. Praticamente, dico, salvarono il tacco e la punta dello stivale, Sicilia compresa, motivo per il quale noi leccesi e i messinesi parliamo proprio di quello stesso identico dialetto, mentre con un barese non mi capisco manco se scendono pace eterno sopra la terra, ecco detto il fatto. Comunque dico, questi longobardi, una volta scesi qui alle terre delle Puglie, tutti si erano bevuto, tranne queste zone più povere, che poi erano come il fondo della bottiglia, ecco. Signoria, ci provi a berlo, ma quando senti la sapore, proprio lo sputazzi fuori in fretta e furia, si vede che il Salento proprio l'hanno scaracchiato fuori, che era proprio indigesto. Dopo però, qualcuno che si è presa questa terra, noi l'abbiamo trovato. E questi erano i saracini, che quelli, dico, erano proprio più poveri di noi, non rifiutavano proprio niente. Ed erano i progenitori di quelli che arrivano adesso sulle nostre coste con le barche stipate per cercare fortuna. E dico, si vede che sono rimasti proprio poveracci, se la fortuna se la vengono a cercare qua in questa nostra terra. Comunque dico, questi progenitori saracini invece erano più in carne, ecco, più attrezzati. Allora si messero a combattere con i longobardi per pigliarsi sta terra. E sta guerra durò millanta e millanta, fino a quando non scesero i normanni, che come non è spazzarono via tutti, longobardi, saracini, e dopo altri millanta scesero i svevi, che come non è spazzarono via i normanni, e dico mo per non farla troppo lunga, dopo altri millanta scesero gli angiolini, e dopo altri millanta i regonesi, e quando ci stavano i regonesi vennero pure i turchi con le navi corsare a prendersi le nostre donne, ovvero il fiore delle nostre donne e tutta la nostra roba, ovvero niente, che di qua erano già passati i bizantini, i longobardi, i saracini, i normanni, i svevi, i giulini e i regonesi, non trovarono più niente, neanche gli occhi per piangere, ecco detto il fatto. Poi per ultimi ci vennero qua i barboni da Napoli, che quello lo dice la parola stessa, sono proprio i più poveri di tutti, ma ci rimasero più di tutti quanti l'altri. E sì, perché dico, signoria, mi conferma, la miseria fa l'uomo tignoso, quello che c'ha se lo tiene stretto, dico, buruca, non c'ha niente, per non rischiare di avere meno di niente, che sarebbe col nientissimo, il nulla fatto e sputato senza possibilità di miglioramento. E tutte queste cose io le so perché a me me le contava mio padre, persona molto colta, che faceva il bracciante. Sì signore, ha fatto il bracciante lunghissimi anni sotto patruno. Patruno Vito si chiamava, persona a modo, istruita, che dico, ci teneva che anche i suoi lavoratori ci avessero un qualche grado di istruzione, a special modo poi mio padre, perché quello proprio ci voleva bene, ecco, che mio padre era lavoratore serio, onesto, un grandissimo faticatore. E così, a fine di giornata, mio padre tornava dalle campagne e ci contava tutta l'istoria di questa nostra terra, che dico, come si può vedere, è proprio storia di miseria infinita dalla cima fino a fondo. E infatti, dopo quel lunghissimo periodo dei barboni di Napoli che ci ho contato, ci vennero qua le guerre, quelle mondiali, che portarono proprio la miseria più nera, dico soprattutto la seconda, che quella me la ricordo pure io, perché io sono nato e cresciuto in quell'anni a pane e acqua e zanguni bolliti, zanguni detti in italiano tarassaco, zanguni che crescono spontaneamente nonostante la guerra. Ecco, questa è la storia. Ora dico, dove andranno a finire tutte queste storie che ci ho contato? Ah, nel teatro? E dico, si può sapere quando va in onda questo teatro? Che per me, dico, sarebbe un onore, ecco, un piacere che ho contribuito a farlo a qualche... Ah, la migrazione? Signoria, sei sceso dal nord fino a qua per sapere della migrazione? come, scusami se parlo proprio aperto, ma la migrazione è un fatto di miseria nera e questo tutto il mondo lo sa. A special modo poi io che conosco a nena dito le storie di tutti i migranti di qua. Dov'è che ho migrato? Ma io non ho migrato per niente, no, ma è come se avessi migrato, sì, proprio chiudi tutti quanti l'altri, proprio da un posto all'altro, tanto che adesso conosco benissimo queste città famosissime del nord Europa, tipo Bruxelles, Neuchâtel, Stuttgart, Mattemarche, Zuriche, Liegi. Dice signoria, come fa a conoscerle se non ci sei mai stato? No. E allora signoria si dimentica davvero che faccio il postino. E noi postini questo ci abbiamo di buono, che viaggiamo più di tutti quanti l'altri, puro che stiamo fermi. E così ho potuto conoscere a Nenadito queste città che ci ho detto prima, Bruxelles, Neuchâtel, Stuttgart, Mattemarche, Zurich e Liege. Giustamente. Comunque, la migrazione... Dunque, la guerra, come ci ho contato, era portata a questa miseria più nera. E la miseria più nera porta alla tristezza. E la tristezza porta alla disperazione. Che è una cosa brutta, eh? Bruttissima, lo stomaco ti piglia. Poi dico tutte le membra, la testa che alla fine proprio sragioni, non vuoi vedere nessuno. La terra maledici dove che sei nato. Una malia, se signoria mi intende. E dico... Io lo so bene, perché l'ho vista con gli occhi miei e vuole sapere da dove viene questa malia della disperazione? Dalla miseria, che gira gira come vede sempre lì stiamo. E questo periodo della disperazione venne a coincidere con la morte di Patrono Vito. Casi era nell'anno 1945, precisamente 25 aprile 1945. Io questa data proprio non me la posso mai scordare. E questa disperazione venne a causa del fatto che la terra passò tutta in mano al figlio di Patrono Vito, che di nome non voglio neanche nominarlo, che qual paese ci sarà tornato una o due volte, poi per il resto se ne stava a Roma. Per studio si diceva, ma dico io sospetto proprio a spassarsela, sì. Perché dico studiare, si può studiare dovunque, no? Mentre per spassarsela ci vogliono le condizioni, tipo i locali, le macchine, le femmine compiacenti, tutta roba che a qual paese non c'era per niente, mentre a Roma sì. Comunque dico, questo figlio di Patrono Vito, figlio di un cane, dire... No. No, quello Patrono Vito non era cane, no, quello era cavallo, stallone proprio, bello, buono come nessuno al mondo. Mentre questo figlio di Patrono Vito alla terra proprio non ci portava amore. Se era per lui, poteva pure sprofondare, ecco, ci poteva venire un buco in mezzo, buio, grande, nero come l'inferno. E infatti tutta la terra se ne andò in rovina e con lei tutto il paese. E nessuno sapeva più come campare. Una malia, ci ho detto. No, no, io a quell'epoca facevo già il postino. Eh sì, perché dico, il postino di prima era andato in pensione e mi aveva scelto a me come successore. E tutto questo grazie a Patrono Vito, no? Eh sì, perché dico, lui mi era invitato la prima volta che c'era venuto in casa il maestro per il figlio, figlio di un cane che non voglio neanche nominare. E siccome disse che mi era piaciuto, mi invitò proprio tutte le altre volte e ci passai un anno intero, tutti i pomeriggi, mi imparai proprio alle lettere dell'alfabeto, la grammatica, le frasi proprio sane, dall'inizio fino allo punto. E dico, questo c'è un grandissimo valore per un postino, soprattutto in un paese come questo, che come ci ho detto qua, pochi sapevano leggere, e delle femmine poi proprio nessuna, mentre che qui per un grandissimo periodo solamente femmine sono rimaste, tra poco ci spiego la ragione. Comunque dico, quando Franco, il postino di prima, andò in pensione, solamente in due potevamo sostituirlo qua al paese, io e il figlio di un cane, ma il figlio di un cane... era figlio dello patrono, quindi se ne andò a Roma. E così il sottoscritto, all'età di 14 anni, si mise la borsa a tracolla, la bicicletta tra le gambe e cominciò questa famosissima attività del postino. E dopo un anno cominciò pure la rovina della terra, ma tanta rovina, dico tanta rovina che non c'era proprio più terra per nessuno. Nessuno sapeva più come campare, nessuno sapeva più cosa mangiare. Una malia. Ma una mattina avvenne il miracolo. Me ne stavo con la mia bicicletta e con la borsa a tracolla e gira che ti rigira, dico, mi sembrava di essere entrato dentro a un sogno. Eh sì, perché le strade del paese erano proprio tutte deserte. Non ci vedevi anima viva, tutto un silenzio, ecco, come che fosse l'inizio del mondo. Che così avevo studiato che era stato l'inizio del mondo a casa di Padrono Vito. E io mi pensavo che questa malia era peggiorata. E già stavo bestemmiando tutti i santi che stanno seduti al paradiso. Dico, con tutto il rispetto per i santi, che fanno bene a stare seduti, che hanno lavorato tutta la vita a fare cose difficili come i miracoli. Ma quando arrivo alla chiazza, tutti lì te li trovo, no? Fitti, fitti, tutti che guardavano dalla stessa parte. E che dico io? Io mi pensavo che il signor Duce Benito Mussolini l'erano messo a riposo, perché dico, quella tunata così grande qua al paese s'era vista solo una volta, quando appunto c'era venuto qua il signor Duce Benito Mussolini a magnificare la fertilità della terra. La fertilità della terra? Vabbè, dico, se l'erano messo a riposo qualche ragione ci doveva essere. Cioè, comunque dico, scendo dalla bicicletta e mi avvicino. E infatti ti scopro che non era per niente il signor Duce Benito Mussolini, ma Angelino Paternò, che leggeva per tutti una reclame attaccata al portone del municipio. Dico, oddio, leggeva, ci provava, perché come ci ho detto qua, pochi sapevano leggere e anche quei pochi pativano delle grosse difficoltà a causa della scarsa educazione. E infatti l'angelino stava lì da mezz'ora e ancora due parole era riuscita a leggere, cioè grande e occasione, che ha messo tutto assieme per grande occasione, no? E la folla, quando mi vedrà a me, oh Pinuccio, cammina, cammina, mi spingevano, bene, bene, insomma, dico, volevano che leggevo un poco più speditamente di quello che stava facendo l'angiolino, cosa della quale poi l'angiolino se la deve essere pure presa, perché da quella volta non mi ha più rivolta la parola. Comunque dico, cose che succedono, insomma, io vado e leggo, e sopra sta reclame stava scritto il miracolo, e più o meno così, Annuncio, annuncio, grande occasione di lavoro nelle miniere del Belgio, lavoro poco faticoso e ben retribuito, vitto e alloggio convenientissimi, possibilità di farsi raggiungere le vostre famiglie dopo qualche mese. Non perdete questa occasione, rivolgetevi all'ufficio di collocamento del vostro paese, accorrete, accorrete. Bah, quando leggo sta reclame, tutti cominciano a guardarsi dentro l'occhio, perché dico, nessuno sapeva più cosa pensare. Qualcuno si pensò addirittura che era ogni scherzo. Sì, perché dico, questo benedetto ufficio di collocamento nessuno sapeva né dove stava né se esisteva. Anche perché dico, adesso ha ragione di cervello, no? Signoria mi conferma. L'ufficio di collocamento serve per trovare il lavoro alle persone. E qua al paese lavoro non ce n'era per nessuno, quindi questo ufficio risultava totalmente inutile, non so se mi spiego. E infatti, dopo un lunghissimo silenzio, comincia ad alzarsi tutto un mormorio diffuso generale, come a dire, bella roba, prenderci per il cosiddetto culo, dico con tutte le scuse, per la mala parola, che magari a signoria ci ribolle nel sangue. E infatti fanno tutti per andarsene via, quando un grido piove dal cielo. E qui significa, no? E qui! E questo era Mariolino Spriano, affacciato alla finestra dell'ufficio anagrafe, che non si sa come era trovato questo ufficio di collocamento. Sì, perché dico, noi al paese, essendo poco attrezzati, ecco, questo ufficio l'erano affidato a Vitaliano Fondelli, anagrafista, quello che teneva il conto di tutti i vivi, i morti di sto paese, no? E la folla, dopo un primo momento, diciamo, di smarrimento, ecco, per il cognome di questo Vitaliano Fondelli, che non ti puoi aspettare niente di buono, no? La folla, cominciano tutti a correre verso l'anagrafe, che parevano proprio un branco di buoi, di tori, imbufaliti. Oh, l'anagrafe, l'anagrafe! Con grandissimo pericolo per l'incolumità della folla medesima. E questo fu l'inizio. Abbiamo 2 milioni di disoccupati da assorbire. La nostra popolazione in età produttiva aumenta di 350.000 unità all'anno, mentre il nostro suolo, con le sue scarse possibilità, non permette di dare lavoro a tutti. Questi dati spiegano la dolorosa ma assoluta necessità dell'immigrazione che il governo cura sforzandosi di ottenere per coloro che sono costretti di recarsi all'estero le migliori condizioni di vita. A tutt'oggi sono stati inviati all'estero sotto il controllo dello Stato i seguenti complessi di lavoratori: 27.000 in Belgio, 40.000 in Francia, 1.250 in Cecoslovacchia. È il sottosegretario agli esteri onorevole Brusasca che parla alla settimana Incom. Il 23 giugno 1946, soltanto 20 giorni dopo il referendum monarchia-repubblica, l'Italia aveva chiuso l'accordo con il Belgio per l'invio di manovalanza italiana nelle miniere. I termini dell'accordo erano i seguenti: invio di 50.000 operai nazionali sotto i 35 anni e di ottima salute, in convogli settimanali da 2.000 unità. Per ogni minatore italiano, l'Italia avrebbe ricevuto in cambio 200 kg di carbone al giorno. In ogni angolo d'Italia nascono uffici per l'emigrazione, spuntano come funghi uffici di collocamento. La burocrazia italiana, per la prima e ultima volta, dà prova di un'efficacia micidiale. In un anno si chiudono accordi con la Francia, la Svizzera, l'Austria, l'Inghilterra, la Svezia, l'Argentina, il Cile. Ma per il Belgio si fa qualcosa di più, perché il carbone serve subito. Serve per ricostruire. Milioni di manifesti rosa invadono l'Italia, recando la grande occasione, a condizioni particolarmente vantaggiose per un lavoro sotterraneo nelle miniere del Belgio, indicando i salari giornalieri, i premi di produzione, il tasso di cambio, gli assegni familiari, il carbone gratuito, i biglietti ferroviari gratuiti, il premio di natalità e gli alloggi dignitosi e a prezzo moderato. E ancora, approfittate dei vantaggi che il Belgio concede ai suoi minatori. Il viaggio dall'Italia al Belgio in ferrovia dura solo 18 ore. Compiute le semplici formalità d'uso, le vostre famiglie potranno raggiungervi dopo qualche mese. L'America trasferita in Europa, praticamente. La prima visita la facevi proprio nel tuo piccolo paesino, ma qui c'era il rischio di imbrogli, di raggiri, si sa come sono questi italiani. La seconda visita l'andavi a fare nel capoluogo di provincia. Qui c'erano ispettori statali meno compiacenti. L'ispezione era più approfondita per verificare l'ottima salute e anche la condotta politica, preferibilmente di centro. Dopo circa una settimana, i candidati minatori partivano da tutti i capoluoghi d'Italia in treno diretti a Milano, caserma Sant'Ambrogio. Qui la permanenza durava 3 giorni e se per caso qualche svista c'era stata nelle visite precedenti, qui dovevi affrontare l'infallibile commissione italo-belga. Medici, burocrati, ingegneri delle miniere ti sottoponevano a una serie severissima di esami: visita medica generale, radiografie, ispezione dentale, epidermica, genitale, ispezione anale, rilevamento delle impronte digitali di tutte e 10 le dita. A centinaia vengono rispediti a casa per i motivi più svariati. Gli altri, intanto, attendevano per giorni nei sotterranei della stazione di Milano che si formasse il convoglio settimanale da 2.000 unità che finalmente t'avrebbe portato in Belgio. Una volta saliti sul treno, il treno veniva blindato, escortato dalla polizia con il mitra fino alla stazione d'arrivo per motivi di sicurezza. Tra gli emigranti italiani si nascondevano in borghese gli ispettori della sicurezza belga per stanare i possibili caporioni facinorosi. Il treno era con i sedili di legno, senza riscaldamento. Ma nonostante questo il viaggio poteva durare anche 52 ore. 18 ore avevano scritto sul manifesto. 52 ore per motivi di sicurezza. Una volta arrivati a destinazione venivano fatti scendere allo scarico merci, dove alcuni addetti delle miniere, a gran voce o con il megafono, smistavano i candidati minatori in carovane distinte per ogni miniera. Un'altra visita accurata, che non fa mai male, poi alcuni camion, addetti di solito al trasporto del carbone, venivano riempiti con il carico e si dirigevano finalmente agli alloggi. Gli alloggi dignitosi e a prezzo moderato. Erano le baracche nei campi di concentramento nazisti, appena sgomberati dai prigionieri russi. C'erano queste e altre condizioni, ma non le avevano scritte sul manifesto, credo per questioni di spazio. Tipo, se ti rifiuti di scendere in miniera vieni arrestato e accusato di rescissione del contratto. Prima di poter cambiare lavoro restando in Belgio devi riscattarti con 5 anni di miniera, altrimenti a casa. Per avere diritto alla pensione devi avere almeno 10 anni di miniera sulle spalle e minimo il 66% di silicosi nei polmoni. Non le avevano scritte, non gliele avevano neanche dette. Vabbè, avranno pensato, questi a stento parlano e capiscono la loro stessa lingua, l'italiano. Figuriamoci capire il francese, o il fiammingo. Insomma, non so se fu colpa del governo belgo o di quello italiano, ma fu proprio una porcata. Comunque dico, andiamo avanti. Anche perché questo del lavoro dentro alla miniera della Belgica è pure un lavoro strano. Infatti dico, bisogna sapere che alla sotto non ci sta solamente il minatore, quello che proprio scava il carbone, ma ci sta pure il manovale, il macchinista, il badilante e così via. Di cuore, una volta che tu eri pronto, che ci avevi tutti i tuoi attrezzi, la medaglietta col numero, con ossia ti perdevi, dico, una volta che tu eri pronto ti facevano scendere con l'ascensore. Ma quando dico scendere, dico proprio 1 chilometro, 2 chilometri, chi può sapere? Io le prime volte che leggevo sta cosa dentro le lettere non ci potevo credere, che si poteva scendere così a fondo dentro la terra, e invece no. Questi belgi erano proprio la prova che ci avevano i mezzi, ecco, per fare queste cose di diavoli. Ecco appunto, se signoria pensa all'inferno, pensa esatta alla mina. E ci sono i suoi motivi. Primo, là sotto c'è un buio, ma un buio che non vedi manco i tuoi pensieri. Secondo, c'è un caldo che non si può respirare. Terzo, i minatori quando salgono di là sotto sono sporchi, neri, come i diavoli. E poi c'è un altro fatto. Sì, signore, quello del fuoco. Là sotto alla mina sta inguattata una bestia orribile e tremenda che ha nome Grisù. E questo Grisù non è nient'altro che un gas che si infila liscio, striscia come una serpe, ti riempie tutti i buchi che dico alla fine, signoria, sei circondato e non ti puoi ribellare. E il meglio che ti può capitare è che ti addormenti per via di sto gas e ti svegli in paraíso, sasci in paraíso, all'inferno, sasci all'inferno. Ma il peggio è che questo gas esplode e con lui tutta la mina, e chi si trova lì in mezzo in quel momento è incenerito, carbone e mezzo l'altro carboni, buono per essere spalato tra 1000 di anni da chissà qual'altri minatori. Capore il nome ti fotte, Grisù. Come il nome di un cane, il nome di un gatto, che tu ti pensi che è buono, che lo puoi carezzare, invece no. È traditore. Ah, ma sotto alla mina stavano pure gli animali buoni, sì, tipo per esempio i cavalli. Fa strano, no? Sapete chi stavano i cavalli sotto la mina? E quelli, dico, servivano per trasportare i carrelli. Li facevano scendere quando erano proprio piccoli, piccoli, piccoli, dico, giusta la misura per entrare dentro all'ascensore. Poi, una volta che scendevano giù, non risalivano più. oppure risalivano quando erano proprio completamente ciechi o completamente morti, che io penso che era poco tempo dopo che erano scesi, perché pensa, signoria, quanto può durare una povera bestia là sotto la mina con tutte quelle cose, il buio, la polvere, il fuoco. Ah, sotto alla mina stavano pure i topi, sì, tanti tanti tanti, piccoli piccoli piccoli, e tu ci lavoravi proprio a contatto, tanto che i minatori si portavano la roba di mangiare dentro una scatola di latta, di ferro, dico, bella stretta addosso, perché sennò mentre che lavoravi i topi ti mangiavano tutto di dentro le tasche. E poi si portavano là sotto anche i canarini. Vuole sapere perché? Perché quando il canarino, o anche quando i topi scappavano, significava che c'era pericolo e bisognava fuggire. Ma adesso dico io, tutte queste cose qua che ci ho contate sulla mina della Belgique, i topi, il fuoco, le baracche, la solitudine, mica le scrivevano tutti dentro alle lettere, no, per non fare preoccupare a casa, è chiaro? Dopo però, dopo qualche mese, i più resistenti proprio dopo un anno hanno cominciato a scrivere com'era davvero questa vita d'inferno, perché si vede che proprio non ce la facevano più e si volevano sfocare. Però, però alla fine delle frasi più tremende ci mettevano sempre due paroline per il sottoscritto, tipo Pinuccio questo non lo leggere a casa, oppure Pinuccio questo non ce lo dire a mogliere ma che non sta preoccupata. E così dico io, alla fine sapevo tutta la vera verità su questa vita della mina, mentre le femmine niente sapevano e si pensavano che i mariti stavano lassù alla Belgique come dei papi. E così dico, faticavano i compari sotto la mina e faticavo pure il sottoscritto, che mi dovevo inventare lettere sempre nuove da leggere al posto di quelle originali. E dico, una fatica, soprattutto quando, quando dovevo leggere le lettere dei miei fratelli, sì, Oronzo e Giuseppe. E sì, pure quelli se ne andarono su alla Belgica, e dico, quelli erano fratelli di carne, quindi io ci soffrivo come una bestia quando leggevo queste cose dentro le lettere, anche perché poi quelli fratelli erano, quindi mi scrivevano pure i dolori più semplici, tipo, che so io, quella volta, no, che Oronzo, scendendo alla mina, sente un compare di queste parti, dei paesi nostri, che cantava quella canzone nostra, quella bella. Ce la faccio sentire, poco. Quella che fa, quando te l'hai la faccia la mattina, ti è bella mia si frisca come un rosa, quando te l'hai la faccia la mattina si frisca. E si messa a piangere, no, Oronzo. Allora Giuseppe, l'altro fratello, che lo vedeva che piangeva, si messe proprio a precare, diceva, vento, vento, porta via questa canzone che non la sente il capomina del padrone, vento, vento, porta via questa canzone che non la sente il capomina del padrone, a tipo di rosario pregava, perché si dice che le preghiere, quando sono dette a tipo di rosario, funzionano meglio. E infatti il vento arrivò, si portò via quella canzone maledetta e traditora. Oronzo smise di piangere, tornò a lavorare, ma ci tornò proprio con la morte dentro al cuore. E io, mentre leggevo sta cosa dentro alla lettera, sta morte proprio la sentivo addosso, perché le lettere, questo ci hanno di bello, che tutte le cose ti sembrano vicine, pur che stanno lontane. E mentre leggi stai proprio con tuo fratello dentro alla mina, piangi se lui piange, ridi se lui ride, stai male se lui sta male, così via. Insomma, dico, chi ha inventate le lettere è stato proprio un grandissimo uomo. Ma ora dico io, tutte queste cose qua che ci ho contate sui miei fratelli lassù alla Belgica, io mica ce ne potevo andare a leggere a Magima. No, anzi, dovevo inventare meglio che con l'altra femmina, perché dico, quella era Magima, mica una qualsiasi, si capisce. E allora, inventa. Ma siccome lei un tempo ci era contato, no, a noi tre fratelli, che la prima volta che si era incontrata con suo marito, che dico poi era anche mio padre, no, lei si era innamorata perché lui ci aveva le scarpe. Sì, signore, le scarpe proprio brillanti, lucenti, che l'avevano quasi accecata dall'amore. Allora io mi inventai che mio fratello Oronzo, la sua alla Belgique, l'erano assunto a una frabbica di scarpe. Eh sì, dico, per farla contenta, no? Questo per mio fratello Oronzo, eh? Giuseppe, poi, l'altro fratello, mi inventai che alla Belgique l'erano fatto proprio dottore. Sì, signore, dottore. Di quelli che vanno a casa dei cristiani malati, no? Che a tutti ci portano rispetto perché è più istruito degli altri. Dice, signoria, come fa a diventare dottore se non ha studiato? Chi è questo c'è di bello all'invenzione? Che a tutto può essere. Puro diventare dottori, senza studiare. E così va bene, quella Purumati, ma si stupiva, diceva, certo che questo Belgio deve essere paese straordinario, eccezionale, se Giuseppe l'hanno fatto diventare dottore. Anche perché adesso, detto tra me e signoria, Giuseppe dei tre fratelli era quello più scarso di comprendonio. E io dicevo, madre, che potete sapere, quello, il Belgio, ecco, è meglio dell'America. L'America era buona un tempo, all'epoca vostra, ma dico adesso è venuto fuori sto Belgio che in fatto di lavoro non teme l'invidia di nessuno, né dell'America, né di Milano, né di nient'altro. Così ci dicevo. E quella madre ma stava lì che proprio di così stimava questi due figli suoi. Tanto che alla fine, il più in ritardo, ero rimasto proprio io a fare ancora il postino in questo sputazzo di terra. Ah, un'altra cosa c'era, difficilissima. Quando dovevo leggere le lettere di compare Michele, che io a quello proprio ci volevo bene come un fratello, no, proprio fratello, ecco. E questa di Michele mo ce la devo proprio contare. Dunque, da Strei, dico da ragazzi, no, da Strei, si andava a fare i bagni al mare. E questo Michele era un poco il capo nostro, ecco, stimato, ben voluto da tutti per via della sua onestà e della sua forza fisica. Dico, ammazzava un bue con un pugno, era meglio non farlo mai arrabbiare. Insomma, si facevano i bagni al mare e tutti facevano i tuffi, tranne il sottoscritto che ancora non sapevo nuotare. E tutti cada dentro l'acqua mi dicevano, minate Pinuccio, minate, buttati significa no, minate, notare si imparano tanto, è una scemenza, minate. E infatti alla fine mi minai e feci male perché mi prese la paura, e a mare la paura è la cosa peggiore, perché dico, cerchi la terra con i piedi e c'è solamente acqua, e più cerchi la terra più vai a fondo. Mi presi paura, cominciai a gridare aiuto, aiuto, tutti quanti se ne andarono via, mentre invece Michele no, si buttò con grandissimo pericolo anche per se stesso. Sì, perché dico, uno che sta affogando è peso morto, che magari è svenuto, cose simili, insomma io dico proprio peso morto ero, ma Michele venne a salvarmi lo stesso, ed è per questo che mi ci sono affezionato proprio come un fratello, no, di più di fratello. E sì, perché dico, Oronzo e Giuseppe, quelli erano fratelli per via del sangue, mentre invece Michele era proprio fratello per via dell'amore che ci portavo. Ma ora il fatto è questo: Michele teneva una moglie bellissima e incredibile, donna Natalia, che a signoria non l'ha conosciuta, ma se pensa alla femmina più bella del mondo, che ci piace più di tutte quante le altre, ecco, quello è il ritratto di donna Natalia. Un angelo, con gli occhi neri, i capelli scuri, le carni sode, che vi ribollono nel sangue. Ed è una fortuna che a signoria non l'ha conosciuta, perché tutti quelli che la conoscevano dopo, le altre femmine non ci parevano proprio niente a confronto. E Michele mi scriveva dentro le lettere, Pinuccio, dici tutto a Mogherima, che è giusto che deve sapere, che tutti devono sapere la fregatura che ci hanno tirata sti cani di Belghi. E dico, la prima volta che vado da donna Natalia, e leggo queste cose dalla miniera della Belgica. Donna Natalia mi dà fuori di lacrime, che era proprio uno spettacolo da brividi, che una donna piangere è già dura da vedere, ma donna Natalia no, più di tutte quante le altre. E allora io mi messi a inventare pure con lei, mentre invece Michele dentro a ste lettere mi scriveva tutti i particolari di questo lavoro della Belgique, pure i chiustani insignificanti, perché si vede che quello proprio, ecco, ci soffriva a stare a servizio di sti padroni belghi, che chissà che ci avevano promesso, invece quello doveva stare là sotto a fare quel lavoro di bestia. E quello soffriva perché era onesto, l'uomo più onesto della terra, come ci ho detto prima. Ma dico, nonostante l'odio, nonostante lo schifo per sti belghi, quello stava là sotto e lavorava ancora più sodo, perché diceva che tanto lì stava e lì doveva restare, piuttosto che tornarsene a casa a farsi la fame, a farsi dire povero Cristo alle spalle dalla gente, perché non aveva resistito al lavoro. E se non aveva resistito lui, si vede proprio che era un lavoro da pazzi, e lui invece chissà che si era immaginato, insomma, che l'avevano fottuto, ecco. Questo era il motivo che la faceva stare là sotto proprio con la rabbia, che io me lo immagino dentro sti cunicili della miniera, che guarda sta roccia che la vuole quasi ammazzare, con sta schiena grande, forte, tutta sporca di carbone, che ti pare la strada maestra battuta dal sole all'estate. Ah, una volta scrisse pure che dovette lavorare alla famosa Vena 25, che nessuno può immaginare com'è. E un attimo, chiudono i cancelli dell'ascensore. Si parte. Il cuore ti salta fuori dalla bocca per la velocità dell'ascensore. 100 metri, 200 metri, 300, 400, 500. Lo stomaco ti arriva in gola. 700 metri, 800, 900, 1000. Ehi, aspetta, aspetta, aspetta. Come 1000 metri? Aspetta, 1100, aspetta. 1200, aspetta, aspetta. 1300, aspetta. 1350, aspetta! Una galleria principale da percorrere per centinaia di metri. La temperatura delle rocce è oltre i 45 gradi, si respira a fatica. Le gallerie laterali portano alle vene di carbone, tutto il resto è roccia. Va bene, ho capito. La vena di carbone è come un piano immenso tra due strati di roccia, un piano di altezze variabili che si estende per chilometri in profondità e in larghezza. Un minatore ogni 10 metri e si comincia ad entrare nella pancia della terra. Fa caldo, là sotto non vedi più nulla per il buio, per la polvere. Sti martelli pneumatici fanno un rumore da pazzi. Butti via la maschera antipolvere perché non riesci a respirare. Levi i calzoni e tutto il resto, ma l'elmetto no, quello no, quello è obbligatorio. Va bene, ho capito. Ogni 80 centimetri di scavo devi puntellare con il legno il vuoto che hai creato. Va bene, ho capito, ma qua non posso manco gridare aiuto, che qua nessuno mi sente. Arrivato a 2 metri di scavo, i puntelli di legno non reggono più, allora infili la barra di ferro da 2 metri e la ripuntelli. Questo quando l'altezza della vena consente di lavorare in agilità, ma non nella vena 25. Che è sta vena 25? La lampada del caposquadra è alta 25 centimetri. Se nella vena di carbone entra la lampada, entra anche il corpo umano. Ma che stai dicendo? Sì, signore. La mattina, quando cominci il turno, devi scegliere se entrare di pancia o di schiena, perché non puoi più né uscire né girarti durante tutte le 7 ore di lavoro. Lì dentro devi strisciare per centinaia di metri. Allora porti con te lo stretto indispensabile, quindi niente barra di ferro da 2 metri. Ma che cazzo stai dicendo? Sì, signore. Puntella con il legno per 2 metri e mezzo, poi torna indietro, allunga il braccio e leva il primo puntello. Brum! Ci sono. Sono murato dentro. Respira. Chi è che mi ha detto quello? Una volta dentro, non guardare la roccia. Tieni gli occhi al carbone e lavora. Va bene, forza allora. Tieni gli occhi al carbone e lavora, forza. 2 metri e mezzo di scavo e leva il primo puntello. Brum! 2 metri e mezzo di scavo e leva il primo puntello. Brum! Invece no, io la guardo la roccia. La guardo. Mi sfiora il naso. Quanti metri saranno? Un chilometro di roccia. Sono sotto un chilometro di roccia. Respira, respira, forza. Non la guardare sta roccia, forza. Tieni di occhio al carbone, lavora, forza. Ricordati che qua dentro lavoriamo a cottimo. E allora più scavi e più guadagni. Allora forza. Tieni l'occhio al carbone, lavora, forza. Tieni l'occhio al carbone, lavora. Tieni l'occhio al carbone, lavora. Se ne stava là sotto, Michele, tutto striminzito, tutto piattito come una lucerta, come i gatti quando si piattiscono per passare in mezzo le fessure. Che Michele teneva di queste doti fisiche atletiche. Donna Natalia ci stava insieme mica per niente, non so se mi spiego. E dentro alla vena 25 Michele si sentiva come un dio, perché più duro era il lavoro più lo riusciva, come a darci una dimostrazione al mondo intero di quello che era capace. Capace lui e capace quelli della sua terra, la quale cosa non la dico io, no, la diceva Michele, frate mio in persona. Ed è per questo che mi ci sono affezionato con un bene matto e disperato, tanto che dentro di me pensavo: scava Michele, scava, facci vedere a sti belgichi patroni di che cosa sei capace, che anche là sotto resti sempre Michele, frate mio, l'uomo onesto nella sua interezza. Allora scava Michele, scava, non ci pensare, che se scavi passa tutto, passa l'odio, passa la miseria, passa la nostalgia che tieni, passa pure donna Natalia, che falla passare una parola. E allora scava Michele, scava fino in fondo, dentro alla terra che essa ti ha generato. E ora ti ripiglia, ti guarda in faccia e ti dice: forza Michele, scava, scavami. Lo so che sei venuto per vedere di che cosa sono fatta, e sono così dura e rinsecchita al tuo paese che non do manco i ceci per la pasta. Allora scava Michele, scavami, che tanto sempre uguale resto, sempre intera, e per quanto tenti di scavare non c'è fine alla miseria. Ci mangia, mangia, e ci non mangia, crepa. E questa la faccenda nuda e cruda. Insomma, era una guerra tra Michele e sta terra vile e maledetta che lo voleva perso laggiù nel buio fino in fondo, che non so manco quanti chilometri ha sceso quella volta, ma penso più di tutte quante le altre volte. Ma la battaglia con la terra penso proprio che la vinse Michele, frate mio, sì signore, perché più Michele scavava, più sta terra tirava fuori craune, ma tanto craune, che nessuno ne era mai visto tanto. E ogni gettata di sto craune Michele pensava: questa è per mia madre, questa è per mio padre, questa è per la mia terra che deve fare una vita migliore, questa è per donna Natalia che lo signore me la tenere bella e onesta, questa è per Pinuccio, sì signore, pure a me pensava, che deve leggere tutto, è tutto giusto, che sa sapere che vita che facciamo noi qua. Insomma, dico, lui là sotto mentre lavorava faceva le dediche, perché questa cosa dell'Ucraune che usciva di dentro la terra era una grandissima cosa, forse uno dei momenti più belli della sua vita. Ah, posso bere? Che loro pensavano alla miniera come un chirurgo, come lei, come un altro, può pensare a cosa vuol dire miniera, però raccontare non è uguale, perché io, malgrado che ho lavorato 30 anni nelle miniere di carbone, io stesso, oggi come oggi, anche che voglio raccontarti la vita che noi abbiamo fatta lì sotto, come abbiamo vissuto, come l'ho vissuto in quei 30 anni sotto la miniera, io stesso oggi non è che non so raccontartela. Non trovo, non sono all'altezza a trovare le parole esatte per fartele capire come erano le cose originali, mi sto spiegando, sono ora, io stesso che non ho le parole. Quando manca l'uomo, alla femmina ci succede come al maschio. Come il maschio sente il richiamo della femmina, così la femmina sente il richiamo del maschio, perché in fondo dico sempre: bestie siamo e le femmine chiude i maschi, da che mondo è mondo. E adesso io queste cose ce le conto con la promessa che signoria non le va a mettere dentro il suo benedetto teatro, ma qua al paese le femmine lo sentivano e come il richiamo del maschio. Eh sì, perché come ci ho contato di qua erano partiti tutti i compari ed erano rimasti solamente i vecchi, i bambini e il sottoscritto Pinuccio Intaglia di professione postino. Ma dico, i vecchi sono vecchi e i bambini sono bambini, quindi non vanno contati. E tutto incominciò con donna Agata Cuccumi di Peppe Rauso, Una mattina di maggio che ancora me la ricordo come se fosse ieri. Tenevo 16 anni. Ui, ma niente teatro su ste cose, eh? Dunque, vado per consegnare una lettera di Peppe e si dicono le solite cose, come va, come non va, le solite cose. Leggo la lettera di Peppe e dentro ci stavano scritte la miniera, la solitudine, le baracche, ci stava scritto l'amore per donna Agata, mentre io sapevo che là sopra dove stava Peppe a 10 teneva una Belgica per quando si voleva divertire, ma non lo potevo dire perché a me me l'aveva spiffirato in una lettera di prima mio fratello Ronzo. Comunque dico, andiamo avanti. Alle paroline dolci di Peppe, donna Agata si fa tutta rigida, che dico, si vedeva proprio che pativa, ecco, per non piangere. Però stando così tutta dritta, dritta davanti a me con tutti i muscoli tesi, pure il petto se ne stava sodo e dritto, tanto che guardando quel petto pensavo, signore, signore, fammi guardo da un'altra parte, dico per l'onore mio, per l'onore di donna Agata e pure per l'onore di compare Peppe, ma proprio niente, non c'era verso. Anche alla fine, quando una lacrima è scesa sulla faccia dolce e bellissima di donna Agata, quel petto continuava a starsene sodo e dritto, tanto che alla fine si può dire che era il petto che guardava il sottoscritto e non il sottoscritto il petto. È scesa la lacrima, donna Agata mi guarda e mi fa: voi non la tenete per una donna, Pinuccio? Dico, il signore ancora non mi ha fatta la grazia. E allora non lo sapete che cosa vuol dire stare qui da sola al paese, abbandonata, senza il marito? Dico, no signora, ma me lo posso immaginare. E che immaginate, Pinuccio? Che immaginate? E dico, che è un gran dolore, un grande strazio, come quando muore qualcuno, solo che in questo caso l'uomo torna, torna. Ah sì, e se non torna? E dico, se non torna, è proprio come quando muore qualcuno, che l'anima del defunto se ne va via e quella di chi resta se ne va pure lei un po' via dietro quella del defunto. Ah, l'anima, dite bene, l'anima, ma al corpo non ci pensate, Pinuccia, al corpo? Al corpo? E che devo pensare, donna Agata? Dovete pensare che pure il corpo soffre, e così dicendo mi prende la mano e me la mette su quel petto infinito, quanto è vero il Dio che possa crepare in questo momento. E stando così la mano sentivo il suo cuore che abbatteva più non posso, eppure il mio sentivo che abbatteva così forte che pareva che voleva uscire fuori dalla bocca lui di persona a vedere che stava succedendo. Venite, venite a sentire quanto soffro. E così dicendo mi prende pure la testa e me la mette su quel petto infinito, su quel petto sodo e immenso. Sentite? Sento, sento. Consolatemi, consolatemi, Pinuccio, voi che sapete leggere e scrivere. Beh, quella volta seppi proprio leggere, scrivere e fare di conto, perché montai a cavallo 5 volte di fila, non so se mi spiego. E alla sera, quando avevo finito, tenevo ancora tutta la posta da consegnare. Quella si affaccia sulla porta di casa, mi guarda e mi fa: allora avete capito, Pinuccio, che cosa vuol dire stare qui da sola al paese, abbandonata, senza il marito? Dico, sì signora, credo d'aver capito. E allora, quando volete, tornate, tornate a trovarmi, che a volte il dolore è troppo grande. Va bene signora, vedo quello che posso fare. E me ne andai con la mia bicicletta mentre il sole moriva dentro al mare e tutto intorno cielo e terra erano rosso di fuoco come l'inferno, se mi volete capire. E così cominciò il grandissimo periodo della consolazione alle femmine del paese. Eh no, io lo sapevo, lo sapevo. Adesso signoria sicuramente pensa, guarda questo postino di Pinuccio, che vita che ha fatta lui qua con le femmine. Peggio, signoria può pensare, guarda queste femmine che vita che hanno fatta, loro che si scialavano col postino mentre i compari lassù alla Belgio. No, no, che non è così, non è così, no signore, che tutti soli eravamo. Tutti soli, è chiaro? Sì, signore, tutti soli, soli i compari alla Belgica. solo le femmine qua al paese, e solo Pinuccio a tenere tutto a posto, tutto in ordine, che quando i compari tornavano dalla Belgica qua al paese potevano dire che niente era cambiato, manco l'amore delle femmine, perché se non era per il sottoscritto di qua al paese, pure le femmine se ne andavano, per la disperazione, è chiaro? Ma io l'ho pagata cara, eh? L'ho pagata forte. Quella mattina che andai a casa di donna Natalia, moglie di Michele Striano, che come ci ho contato prima ci volevo bene come un fratello. Arrivo là, si dicono le solite cose, come va, come non va, le solite cose. Ma a un certo punto donna Natalia comincia a guardarmi dentro all'occhio con quei suoi occhi scuri che io già mi sentivo tremare tutte le gambe, forte, forte, mi guarda, mi fa: ho sentito che andate in giro a consolare le femmine del paese, Pinuccio. Vedi ste femmine come sono bestie, tutto tra loro si dicono. Ma io dovevo fare la faccia di bronzo, la guardo, ci faccio: signora, chi ve l'ha detto è troppo buona, io nient'altro che qualche parola di coraggio ci dico. Entrate Pinuccio, accomodatevi un momento. E io entro con le gambe che mi tremavano forte forte. Sedetevi Pinuccio, mettetevi comodo. E io mi seguo con le gambe che mi tremavano ancora più forte di prima, perché dentro di me pensavo: ma che vuole donna Natalia? Vuole farmi una predica? Ce lo vuole andare a dire a Michele? Vuole farmi un ricatto? Perché queste femmine sono capaci di tutto, è una maledizione sono. Volete qualche cosa da bere Pinuccio? Dico: no signora, tengo ancora tutta la posta da consegnare, forse è meglio che me ne vado. Tengo acqua, vino e limoncello. Perché non vi bevete un bicchiere di limoncello, Pinuccio? Dico: va bene, facciamo questo limoncello. Lei va a prendere il limoncello di là, io resto seduto di qua come un cretino, con tutto rispetto parlando per i cretini del mondo che sono assai assaiissimi. Lei mi versa il limoncello, io bevo e lei si siede. Vi è piaciuto il limoncello, Pinuccio? Dico: sì, mi è piaciuto il limoncello. E consolare le femmine, pure vi piace? Dico: no, perché vuol dire che la femmina è triste e la tristezza è una brutta cosa. Ah sì? E donna Concetta, la moglie di Pietro Costante, pure quella avete consolata? Dico: signora, non lo so, non mi ricordo, io una buona parola non ce la nego a nessuna. Ah sì? Donna Concetta, quella tutta sdentata, con gli occhi storti, col fiato che le fete. Dico: signora, non lo so, può essere che l'ho consolata come che no. Allora voi proprio tutte le consolate? No, solamente quelle che ci hanno bisogno. E allora tutte? Perché qua al paese tutte sono tristi e tutte ci hanno bisogno. E allora tutte ci faccio io. No, tutte tranne una fa lei. E qua le gambe si erano smesse di tremare perché erano proprio morte, stecchite. Che cosa volete dire, donna Natalia? Che anche io tengo voglia di essere consolata. A questo punto, signoria, deve sapere che io mi ero rimasto seduto. Lei sarà alzata in piedi di fronte a me, si leva i passanti del vestito, cacate giù, giù, fino a terra, e donna Natalia, moglie di Michele Striano, che ci volevo bene come un fratello, la donna più bella del mondo, dell'universo, addirittura se ne resta nuda, nuda davanti al sottoscritto. Solamente i capelli teneva, che la coprivano un poco. Una visione. Un angelo mandato dal paradiso qua a mezzo il paese. Un angelo, ma che dico, un angelo, no diavolo, era venuto a tentare il povero Pinuccio. Io la guardo, ci faccio: no, no, donna Natalia, consolatevi da sola, io tutte le consolo, ma voi non vi posso consolare, che siete moglie di Michele Striano, frate mio, e faccio per andarmene alla porta. Ma quella mi si butta addosso come a una furia, comincia a dirmi cose tipo: che tenete Pinuccio, ah, tenete paura, paura di Michele e di tutti quanti gli altri, no? Che fine ha fatto sto grande consolatore di femmine? E poi altre cose tipo: prendetemi, toccatemi, mi vi dono, insomma queste cose che ci vengono in mente alle femmine quando ci hanno l'imbasamento dell'amore. Ma io me ne volevo solo andare, ma non potevo, perché donna Natalia mi aveva preso, sbattuto per terra, e mi si agitava addosso che pareva proprio una ragazzina, che mi feci pure un male tentando di liberarmi. E lottavo contro di lei, e lottavo contro la mia carne stessa, che reclamava quel corpo così bello e perfetto. E alla fine, Ci la feci, mi buttai sopra la mia bicicletta per scapparmene via il più lontano possibile in fretta e furia. E donna Natalia da quel momento non ci ha pensato più a prendermi, no. Anzi, dura, cattiva era diventata tutte le volte che mi vedeva. Ma io invece ci pensavo, e come, perché quello che avevo provato nessuno lo può dire né raccontare, per cui so che adesso signoria non mi crede, ma non fa niente, ora basta, parliamo d'altro. Ma dico, guarda bene Dio, io vi parlo di me, dei fatti miei personali, e non vi parlo dei compari che stavano là sola a Belgica. Dico, signoria, per questo è venuto. E allora non cambiamo argomento. Torniamo a sti benedetti compari della Belgica. Dico, anche se poi molte cose diverse da quelle che io ci ho già contate, non è che ce ne sono. Che so io? Per dire, no, ogni tanto qualcuno di questi compari si stancava di questa mina e se ne andava via. Sì, tipo Franco Ninni del Fuggiacomo. Quello se ne andò proprio agli Svizzera e penso che è stato proprio uno dei primi ad andare a questa Svizzera. Sì, forse proprio il primo. Prima, dico, di tutti quanti gli altri, che poi invece nel tempo diventarono tanti, tantissimi, tanto che alla fine sta Svizzera pareva che era meglio del Belgio in quanto al lavoro. E Franco, lì l'erano assunto a una frabbica di gioculata. Roba di leccarsi i baffi, e quello, dico, se li leccava e come, perché non ci pareva vero che era passato dal carbone alla gioculata. E mi scriveva ste lettere piene di complimenti per questi svizzeri, che pareva che erano proprio gentili, gentilissimi, proprio la faccia della gentilezza fatta persona. E la prova era, diceva Franco, che tutte le volte che li incontravano ci dicevano, però ecco sottovoce, quasi vergognavano, ci dicevano cincali, oppure italiani cincali, e Franco diceva questo deve essere proprio un grande complimento, e mi scriveva dentro le lettere le teorie su questa parola svizzera, tipo secondo me vuole dire bravi, oppure secondo me vuole dire bravi lavoratori, o ancora bravi lavoratori, quanto che vi vogliamo bene, e così via, no? La cosa che lo faceva proprio impazzire era che sti svizzeri non dicevano mai Franco cincalo, ma proprio italiani cincali, dico, a magnificare tutta la stirpe. E Franco diceva questo deve essere complimento grandissimo, gratuito. Poi un giorno mi scrive una lettera parlando dei fatti suoi e io già mi stupivo che non era cacciata una nuova teoria su questa parola svizzera. Alla fine della lettera però, dopo i saluti, come una cosa da dire e da non dire, mi scrive che un suo amico di Brescia ci aveva spiegato che cosa voleva dire questo cincali. Zingari, sì signore, zingari voleva dire. Questo era il grandissimo complimento, che non era manco una parola svizzera, no. Era come i svizzeri provavano a dire zingari, dicevano cincali, da chi si capisce che erano puro duri di comprendonio, con tutto il rispetto parlando, per sti svizzeri. Sì, va bene, poi qualcun altro scrisse che invece veniva dal fatto che le migranti del nord Italia, no, del Veneto, del Friuli, da Lombardia, insomma, dico del nord Italia, quando stavano lì alla Svizzera, che erano tanti, tantissimi, erano più di quelli del sud, allora giocavano a sto gioco loro, la morra, e tiravano i numeri, e quando tiravano il 5 dicevano 5, 5, 5, alla loro lingua, no, 5, e i svizzeri per prenderli a giro ci dicevano cincali. Ma adesso dico io, o 5 o zingari, sempre offesa voleva essere. Perché quelli svizzeri ce l'avevano proprio a morte con gli italiani, perché dicevano che andavamo a rubare il lavoro a casa loro. Ma se tu questo lavoro non lo vuoi fare perché lo schifi, ma che protesti a fare? Si vede proprio che altri cazzi non ce n'avevano da pensare, comprendendo in questo le scuse per la mala parola e per sti svizzeri. Ma dico, di sta Svizzera non si può parlare un'altra volta. Mi sta venendo il fegato amaro, mi cambio argomento da solo. Torniamo a sti compari della Belgica, come ci ho detto prima, così ci conto le ultime cose e la facciamo finita. anche perché, come ci ho detto, molte cose diverse da quelle che ci ho già detto non ce ne sono. Quella era la vita del minatore: scendi alla miniera, fai il turno, sali, va alla baracca, lavati, mangia, torna il giorno dopo alla miniera. Dico così all'infinito, che so io. Ecco, la domenica qualcuno si faceva una passeggiata, oppure quando qualcheduno finalmente con qualche ferita leggera finalmente finiva all'ospedale. Sì, che dico, almeno si riposava un poco. No, qualcuno si faceva proprio un male sul serio, e qualcun altro se ne andava proprio al creatore. No, più o meno uno ogni 5 giorni. E sto parlando solamente dei minatori italiani, ma per i padroni della miniera niente era. Che se non ne morivano almeno 3 nello stesso giorno, nella stessa miniera, il lavoro non si poteva fermare. Questa era la legge. Ma siccome quando una legge è sbagliata è come una maledizione, ci volette quel disastro del 1956 perché i capurioni dell'Italia e della Belgique muovessero il culo per cambiare queste condizioni di lavoro bestiali, con tutto il rispetto parlando per le bestie che a volte sono più umane di certi bestie di uomini. 1946, 17 morti italiani in miniera in Belgio in incidenti diversi. 1947, 32 italiani. 1948, 37 italiani. 1949, 41 italiani. 1 marzo 1950. In seguito alle lamentele pubbliche di alcuni minatori italiani, il quotidiano nazionalista La Nation Belge sbeffeggia quelle denunce definendole portatrici di voci straordinariamente immaginative. Maggio 1950, miniera di Trasagné, 40 morti, 3 italiani. Altri 37 italiani perdono la vita nello stesso anno in incidenti diversi. 1951, nasce la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la mamma della CEE. L'accordo firmato da Italia, Francia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Belgio dovrebbe occuparsi anche di migliorare le condizioni lavorative dei nostri minatori in quelle miniere. Nello stesso anno perdono la vita 51 italiani in incidenti diversi. 1952, marzo, scendono in sciopero i minatori dei bacini del Borinage e di Charleroi. Giugno 52, 2 incidenti a Charleroi, 10 morti, 6 italiani. Altri 46 italiani nello stesso anno. 1953, 101 italiani, 1 ogni 3 giorni. 1954, 56 italiani. 1955, 38 italiani. Luglio del 56, il quotidiano italiano L'Unità pubblica finalmente l'unico articolo di denuncia molto circostanziato sulle condizioni dei nostri minatori in quelle miniere. Soltanto alcuni giorni dopo, 8 agosto 1956, Marcinelle, 262 morti, 136 italiani. Ore 8 del mattino, bacino di Charleroi, Marcinelle, miniera chiamata Cuore Amaro. Nella corsa di risalita alla superficie, un carrello pieno di materiali di scavo, sbattendo contro le pareti del pozzo prive di protezione, sradica una barra di ferro e trancia i cavi della corrente elettrica, la condotta dell'olio e il tubo dell'aria compressa. È l'inizio dell'inferno. Le fiamme scatenate dal cortocircuito si propagano con velocità dal luogo dell'incidente alle impalcature di legno delle gallerie sottostanti. I minatori di turno quella mattina sono bloccati dentro, senza possibilità di fuga. Sperando di trovare dei sopravvissuti al fuoco, all'esplosione, e di salvarli dall'asfissia, i soccorritori tentano di raggiungere il livello più basso, a quota 1035 metri, scavando un percorso trasversale da quota 907. Ma il caldo terribile, la caduta di pietre e la condotta dell'aria che sta fondendo impediscono l'inizio dei lavori. In Italia siamo tutti con il fiato sospeso. Siamo di fronte al primo tragico scoop in diretta della televisione italiana. Nei bar si resta incollati per giorni al televisore, aspettando nuove notizie. Soltanto il 12 agosto sarà possibile raggiungere quota 907. Nelle gallerie non ci sono che cadaveri. Quando è possibile riconoscerli come tali? Corpi folgorati dal fuoco ancora in posizione di lavoro, altri asfissiati dal fumo, dal gas. Alcuni vengono trovati sotto 90 centimetri d'acqua, usata per spegnere le fiamme. Le ultime salme verranno recuperate soltanto il 22 agosto a quota 1035 metri. Bene, 3 anni dopo la tragedia di Marcinelle, il tribunale di Charleroi chiuderà il processo con una sentenza di generale assoluzione. Del resto, soltanto alcuni giorni prima di Marcinelle, la stampa belga parlava così dei nostri minatori: non abbiamo più bisogno di questi italiani. Ancora peggio il loro ministro, Van den Daal. Dichiarazione ufficiale: gli italiani sono buoni solo per venire a crepare da noi. 1957, 47 italiani. 1958, 32. 1959, 25. 1960, 34. 1961, 25. 1962, 29. 1963, 23, eccetera, eccetera, eccetera. E quando lo Signore nostri Dio mi chiamerà, non dirà Pinuccio ti mando all'inferno, no, dirà Pinuccio ti mando a Marcinelle, perché da quel giorno lo Signore nostro Dio ha presa Marcinelle e l'ha sbattuta dentro la pancia della terra al posto dell'inferno. Maledetta Marcinelle, maledetta Mina e maledetta Belgica. Sì Signore, che solamente un anno dopo mi ha portato via pure Michele. Michele che mi aveva salvata la vita. Michele l'uomo più forte della terra, Michele il silenzioso, Michele il Signore, Michele che odiava i torti e le ingiustizie, Michele frate mio, se n'era andato via, andato via per sempre. Ma ora c'era un problema, che donna Natalia non lo doveva sapere e io di Michele non ci dissi niente. Signoria può protestare che sono una bestia, che queste cose non si fanno, ma io lo feci per rispetto di donna Natalia, che si doveva pensare invece che suo marito stava ancora lassù alla Belgique come a un papa. Allora tutte le domeniche che il Signore mandava sulla faccia della terra, io mi mettevo dentro casa mia e scrivevo le lettere di Michele per tutta la settimana dopo, perché volevo che donna Natalia si pensava che suo marito ci voleva ancora più bene di prima, che ci scriveva più spesso. Insomma, Michele per me non era morto mai, e manco per donna Natalia. Intanto però l'altri compari cominciavano a tornare qua al paese, il paese cominciava di nuovo a essere pieno di gente, di vita, di gente che sorrideva come ai tempi belli di Padron Ovidio, quando c'era il lavoro per tutti. Tornarono pure i miei fratelli, Sì, Oronzo e Giuseppe. Oronzo si prese moglie e mise su l'edicola, quella che sta qui all'angolo della piazza, mentre invece Giuseppe continuò a vacare ancora di lavoro in lavoro. Arrivò di nuovo lontanissimo fino a Tarese, dove ci stava una fabbrica di macchine della Fiat, e lì poi invece ci rimase lunghissimi anni fino alla pensione. No, la pensione di invalidità. Eh sì, perché dico, ci venne la silicosi, no? E quella è malattia che hanno presa tutti quelli che hanno fatto la miniera. Come ci spiego? Dico, chi ha fatto la miniera c'ha i polmoni pieni di questa polvere di carbone, che nel tempo diventa tosta, ecco, dura come una pietra, e ci impedisce piano piano ai polmoni di respirare. Ecco, dico, così me l'ha spiegata Giuseppe, frate mio, che adesso sta a casa con la bombola d'ossigeno, aspettando che la morte se lo porta via. E signoria mi deve credere, io questo ci auguro, che la morte se lo porta via più presto possibile, perché io lo vedo tutti i giorni e vedere queste cose proprio mi strazia nel cuore. Donna Natalia? No, niente, come ci ho detto, io continuavo a inventarmi queste lettere e donna Natalia continuava a pensarsi che suo marito stava lassù alla Belgique come a un papa. Dico, certo, ogni tanto chiedeva, diceva, com'è che tornano tutti qua al paese? Michele non torna. Io ci dicevo, no, donna Natalia, torna, vedete che torna, quello Vuole diventare ricco, ecco, ricchissimo. Vuole farvi fare una vita di signora fino alla fine dei vostri giorni. Così ci dicevo, dico, ma intanto l'anni passavano e Michele non tornava. Io continuavo a inventarmi queste lettere. E poi, qualche anno fa, donna Natalia si è ammalata. E così quando vi parlo delle persone che ci ho volute bene, vi parlo tutte di persone che... Ma va bene, così è la vita. E donna Natalia, quando se ne stava partendo via, mi volle solamente a me, vicino al letto di morte. Sì, signore, mi mandò proprio a chiamare. E io ci andai. Mi ricordo che era una sera caldissima di agosto e donna Natalia... Era bella come sempre, i capelli bianchi, candidi, la pelle liscia liscia, dico, nonostante non ci avesse più l'età di una ragazzina. Allora mi fece segno di avvicinarmi, io mi avvicinai e quando ci fui proprio vicino, vicino al viso, donna Natalia mi guarda dentro l'occhio, mi sorride, mi fa: grazie Pinuccio. E di che ci faccio? Della compagnia, mi fa. Dovere ci faccio. A Michele, che ci devo dire? Digli che sto per andare da lui. Così disse. Digli che sto per andare da lui. Aveva capito tutto e chissà da quando, ma non mi diceva niente. Dico, forse per farmi contento che ci scrivevo tutte quelle lettere, o forse per non soffrire troppo pure lei. Io stavo lì che non sapevo che dire, che tremavo, sudavo. Donna Natalia mi guarda un'altra volta dentro l'occhio. Mi sorride ancora più forte di prima, mi fa: ciao, Pinuccio. E io che stavo lì a sudare, a tremare, ci dissi solamente: salutatemi a Michele. Ma così, con un filo di voce, che anche la voce quella si vergognava, pareva che se ne voleva scappare via. Poi donna Natalia chiuse l'occhio come per riposare e io me ne uscii fuori ed era tutto uno sfolgorio di luci, di colori, che ti pareva l'ascensione della Madonna, la Madonna del paese per l'appunto, donna Natalia di Michele Striano. Ci piansi 3 giorni e 3 notti perché io cominciai a capire in quel momento che io a donna Natalia ci avevo voluto bene veramente, anche se era moglie di Michele Striano, frate mio, al quale pure a lui ci volevo bene, ed era tutto un misto di bene, di male, bene per il bene che ci avevo voluto. E male perché ce lo volevo a una femmina che non era la mia ma quella di Michele. Ma dopo 3 giorni però cominciai a pensare che a volere bene a qualcuno non si fa male a nessuno. E mi sembrò un pensiero così bello che smessi di piangere e lo andai a scrivere sopra un foglio di carta come un proverbio. E lo intitolai Proverbio di Pinuccio. E vedrete se questo proverbio non diventerà famoso. Poi mi presi la mia bicicletta e me ne uscì fuori dal paese, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano. Mi messi sopra l'erba, mi messi a guardare il cielo per vedere se sorrideva. E sorrideva, no? Con tutte le nuvole bianche, come i denti bianchi delle bocche quando sorridono. E questo voleva dire che Michele e Natalia se ne stavano lassù beati a guardare a noi altri che buttavamo ancora il sangue su questo sputazzo di terra. Poi però, guardando ancora il cielo, pensai che non c'è un cielo come il nostro, così splendente di sole, e mi rimasi a guardarlo fino a notte. E a notte, guardando tutte quelle stelle, pensai che non ci stanno stelle come le nostre, così tante, lucenti, che ti pare la festa di Sant'Uronzo. E mi rimasi a guardarle fino al giorno dopo. Il giorno dopo il sole brillava ancora più forte nel cielo. Allora lì pensai che tutto il nero di tutto il carbone del mondo a questo sole non ci può tingere manco un raggio. Poi mi presi la mia bicicletta, me ne tornai a casa mia e mi messi dentro il letto e mi rividi tutte le facce dei compari. Ma prima della partenza, ancora giovani, freschi, Giovanni, Pasquale, Antonio, Rosario, Gino. Bisogna sperare e andare avanti. Ti saluto te, mamma, mio fratello e tutti. Tuo affezionatissimo. Queste condizioni, Gino. Uno è più che sufficiente. Tu pensa a studiare che meglio. Abbraccia mamma e papà, Antonio. Mi sembra un sogno quando ti vedrò. Carezza i bambini e diglielo che il babbo è lontano, non per cattiveria, ma che si deve lavorare. Per sempre tuo Angelo. Ti saluto, tua Anna. Ora ti saluto che è notte e mi addormento contento per la tua lettera. Sei sempre nel mio cuore. Tuo affezionatissimo Claudio.